Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, ben ritrovati ai nostri ascoltatori. Oggi nella nostra puntata Dietro la notizia parleremo di un'iniziativa editoriale. Il Sole 24 Ore pubblica e mette in vendita oggi insieme al quotidiano un libro, un Nistan Book curato da Nova 24, che è il supplemento di innovazione, creatività appunto del Sole 24 Ore, libro dedicato al fenomeno Facebook. Ne parleremo tra poco con Enrico Pagliarini di Radio 24, titolare della rubrica 2024. Dedicata appunto sulla nostra radio all'innovazione e alle tecnologie. Ne parleremo, se ci raggiungerà in studio, con Luca De Biase, responsabile di Nova 24. Permettetemi però di fare una piccola parentesi prima di entrare in argomento, una parentesi perché tra le notizie che avete sentito del GR anche prima e anche sui giornali di oggi c'è questo fatto che il governo, il ministro dell'economia Giulio Tremonti, ha fatto un po' marcia indietro sui provvedimenti, soprattutto per quanto riguarda la retroattività nei provvedimenti che toglie alcuni benefici fiscali per gli interventi di risanamento ambientale. Ora, ecco, il fatto che il governo abbia ammesso un proprio errore è certamente positivo, ma vorrei sottolineare come in questo fatto hanno avuto una grande influenza i giornali, hanno avuto una grande influenza le radio, hanno avuto una grande influenza la capacità di farsi vivi da parte degli ascoltatori, dei lettori. Abbiamo avuto moltissime lettere, abbiamo dedicato trasmissioni da Salvadanaio alla Zanzara, anche alla nostra trasmissione Teatro della Notizia, a questi temi. Ecco, anche questa pressione dell'opinione pubblica attraverso i giornali, attraverso le radio, attraverso la nostra radio ha certamente contribuito a far sì che si ritornasse appunto a una coerenza politica, a una logica, a provvedimenti che fossero coerenti con gli obiettivi che lo stesso governo si pone. Quindi è una piccola vittoria anche della nostra radio e per questo ci tenevo a sottolinearla. Ma veniamo al tema di oggi, veniamo a Facebook, un fenomeno appunto, e questo Instant Book che esce con il Sole 24 Ore al prezzo di 4,90 euro oltre al quotidiano sarà disponibile da oggi in edicola. Allora, Enrico Pagliarini, cominciamo a dire che cos'è Facebook, il libro delle facce, ma come nasce questo nome? Buongiorno, grazie per l'ospitalità. Il titolo del libro del Sole 24 Ore dice molte cose, il fenomeno Facebook, e non a caso noi quando parliamo di Facebook la consideriamo un'unica parola, Facebook. Sul libro invece le parole sono divise, Facebook, quindi le facce e il libro delle facce. Tutto nasce nel 2004, quindi poco tempo fa, un fenomeno molto, molto nuovo. Nasce all'interno di un'università americana. È tradizione nei college e nelle università stampare un libro con le facce degli studenti per favorire, diciamo, la condivisione interna, per riconoscere i propri compagni di college o di università, quello che appunto viene definito il Facebook. E per tanti anni il libro, ma ancora oggi questo è un libro di carta con le facce, le fotografie, tutto qua. Uno studente che oggi ha 24 anni, all'epoca ne aveva 19, ne stava compiendo 20, ha avuto un'idea e ha creato un sito internet per digitalizzare, per trasformare questi libri, questo libro della propria università Harvard negli Stati Uniti su internet. Che cosa è successo? Che in pochissimo tempo molti studenti si sono collegati a questo sito internet, si sono scambiati fotografie, messaggi, eccetera, eccetera. Dopo qualche mese il sito internet si è allargato ad altre università e oggi il sito è allargato a tutto il mondo, quindi è un sito dove chiunque può iscriversi e poi scambiarsi fotografie, messaggi, eccetera, eccetera. Ecco, il sito italiano è in italiano, quindi è un sito che si è diffuso in tutto il mondo, ma ha poi assunto in ogni paese la sua connotazione. Dov'è il business di questo sito? Questa è una domanda molto interessante perché ancora il business non esiste. Cioè, allora, diciamo che anche questo sito funziona come altri siti internet, è gratuito il servizio, quindi chiunque può iscriversi gratuitamente. Esiste la pubblicità e quindi il sito internet guadagna con la pubblicità che le persone visualizzano nella propria pagina o nelle pagine degli amici. Dicevo che il business non esiste ancora perché questi siti internet, Facebook come altri, soffrono di un non solo di un momento, ma anche di una gioventù che non li ha ancora portati ad essere profittevoli, come dicono gli esperti di economia. Ecco, è un sito facile, cioè un sito in cui si può accedere, sì, con abbastanza facilità, quindi è anche a disposizione di chi forse non ha tutti i rudimenti dell'informatica, di internet, non ha la capacità, sì, ma anche l'abitudine di usare degli strumenti informativi che in fondo sono abbastanza nuovi. Sì, questo è vero. Infatti, quando si parla del fenomeno in generale dei social network, perché appunto il libro del Sole 24 Ore parte da Facebook, che è forse il fenomeno del momento, ma poi si allarga e fa una serie di riflessioni sul fenomeno dei social network, questi siti di condivisione fondamentalmente, dove si condividono pensieri, fotografie, eccetera eccetera. Dicevo, è un fenomeno che è iniziato qualche anno fa, e fino ad oggi molti siti internet erano un po' difficili. Ricordiamo ad esempio un altro sito molto famoso, che è MySpace. Ecco, MySpace ad esempio richiede qualche competenza tecnologica, comunque un po' di attenzione. Facebook in effetti è molto facile, quindi quasi tutti, o almeno chi sa usare un computer, molto probabilmente sa utilizzare Facebook. Ecco, c'è un tema che è abbastanza ricorrente e che negli ultimi anni ha assunto una particolare importanza che desta particolare attenzione, che è quello della privacy. Ora, il tema della privacy è un tema appunto del rispetto delle garanzie che una persona deve avere, perché non vengono messe in piazza delle informazioni personali che possono riguardare appunto strettamente le condizioni di salute o altre cose che riguardano strettamente la persona, e che è giusto che restino riservate, che non vengono appunto messe a disposizione di altri. In questo caso è difficile vedere rispettata la privacy, perché è proprio il social network, direi, un contrasto in essere, proprio nell'essenza stessa della cosa. Esatto. Chi entra in questa comunità accetta di farsi vedere da tutti. Esattamente, sì. Diciamo che si accetta di mettere a disposizione una serie di informazioni. Poi il tema è estremamente importante, delicato, complesso, e ricordo che in una recente riunione delle authority internazionali che si occupano di privacy, addirittura le authority sono intervenute parlando di Facebook, del fenomeno dei social network. Certo, è importante ricordare appunto che si mette in condivisione anche buona parte delle proprie informazioni. Ecco, in questa prospettiva però uno accetta, e quindi sa fin dall'inizio che quello che dice, quello che mette su Facebook è quello che poi sarà a disposizione di tutti. Ma ecco, all'interno del sito però comunque uno può mettere dei paletti, sì, può dire queste mie informazioni possono essere condivise solo dai miei amici. Sì, allora diciamo che nome e cognome possono essere ritrovati un po' da tutti, cioè uno va sul sito internet, cerca Gianfranco Fabi, se Gianfranco Fabi è iscritto a Facebook. Non è ancora iscritto a Facebook. Lo iscriveremo tra poco. Però trova Gianfranco Fabi e il sistema dice che Gianfranco Fabi esiste all'interno del sistema. Poi uno può decidere di mettere in condivisione alcune informazioni. Ci sono sostanzialmente due livelli, insomma, per gli amici più intimi e un po' per la comunità. Però certo, quando si è all'interno della comunità si mette a disposizione poi tutta una serie di informazioni, a partire dalla data di nascita. E adesso in Italia sono più di 4 milioni le persone che sono iscritte a Facebook. Rispetto alla popolazione dei navigatori in internet, a che livello siamo, Pagliarini? Dunque, grosso modo, quando parliamo di popolazione che naviga in internet, parliamo di, c'è chi dice 20 milioni, c'è chi addirittura esagera, forse dice 25 milioni, poi bisogna su questo numero fare una serie di riflessioni, perché non tutti quelli che vengono rilevati navigano tutti i giorni, c'è anche gente che naviga una volta alla settimana, una volta al mese, però su 20-25 milioni, insomma 4 milioni sono sicuramente un buon numero. Poi bisognerà vedere, ma questo è un dato probabilmente poco comprensibile, di questi 4 milioni quanti tutti i giorni effettivamente si scambiano messaggi. Grazie Enrico Pagliarini, salutiamo Luca De Biase, responsabile di Nova 24, che ci ha raggiunto, ma diamo la parola a Stefano da Milano. Buongiorno. Buongiorno, sono Stefano Quintarelli. Volevo fare un breve intervento circa l'aspetto sulla remunerabilità di Facebook. È stato detto che non è da Enrico Pagliarini che non è ancora chiaro quale sarà il meccanismo di remunerabilità. La cosa che sta emergendo abbastanza chiaramente su internet è che un elemento determinante nelle relazioni di business è la fiducia. Il Facebook e tutti i social network consentono di esplicitare le relazioni di fiducia tra le persone, quindi la promessa di Facebook è quella di diventare, di trasformarsi in un portale di ingresso a qualunque tipo di relazione, ovvero se qualcuno vuole vendere delle applicazioni, del software, eccetera. Diventa in pratica l'unico grande servizio di directory, di indicizzazione, che consente a tutte le persone di mettersi in relazione per scambiarsi dei beni. Questo potenzialmente potrebbe aprire un mercato enorme e probabilmente questa è la ragione per cui Microsoft è interessata. Grazie mille, grazie appunto Enrico Pagliarini, è anche un portale allora commerciale in cui può anche diventare un eBay questo Facebook. Sì, diciamo che prima parlavamo della pubblicità, mentre chiacchiera col proprio amico, mentre scambia magari una serie di fotografie che ha scattato nel fine settimana, vede anche messaggi pubblicitari, e c'è chi vende prodotti sfruttando proprio questo momento, perché l'attenzione del pubblico è un bene prezioso, lo diceva anche poco fa la persona che è intervenuta. Dunque, io immagino che Luca De Biase sia arrivato adesso perché stava aggiornando la propria pagina su Facebook. Sì, Facebook, Twitter, il blog. Ecco, allora Luca De Biase, questi fenomeni ogni tanto emergono e ogni tanto scompaiono. Abbiamo visto, per esempio, Second Life, mi sembra che sia un fenomeno che ha avuto un grande splendore per un certo periodo, ma anche una rapida decadenza. Facebook invece no? Luca De Biase. Ma ho l'impressione che di Second Life abbiano parlato più i giornali che gli utenti e di Facebook abbiano parlato più gli utenti che i giornali. Questo fa la differenza naturalmente perché si vive di passaparola, si vive di relazioni e soprattutto le piattaforme vivono degli utenti che le frequentano. Second Life era abbastanza vuota, è sempre stata abbastanza vuota, adesso è molto utile per degli appuntamenti in stanze preparate, lezioni e cose anche piuttosto divertenti. Ecco, quindi Facebook invece è qualcosa che può essere concretamente la base per un nuovo modello anche di relazioni sociali? Ma io penso che Facebook dichiaratamente si propone di fare da aiutante per le connessioni tra le persone. Vuole essere prima di tutto un sistema, diciamo, di iperposta evoluto tra gli amici. Questo è la sua missione, è quello che vuole fare. Tutte le altre cose delle quali che stanno nascendo su Facebook sono, diciamo, delle cose che aiutano a utilizzarlo meglio o a utilizzarlo di più, ma non necessariamente sono il suo cuore. Ricordiamo che è di proprietà di Mark Zuckerberg e di altri azionisti, e dunque non è la rete. Tutte le innovazioni, le grandi piattaforme proprietarie in rete sono importanti, forti, ma tanto più quanto più si mettono al servizio dell'insieme, perché l'insieme è clamorosamente più forte. Parleremo di questa iniziativa del Sole 24 Ore che oggi mette in vendita, legato al quotidiano, un Istanbul, il fenomeno Facebook, cioè il social network che viene spiegato in tutto quello che appunto volete sapere sui social network e non avete mai osato chiedere. Ci sono molti sms e molti sono centrati sul fatto che il vantaggio di questi social network, il vantaggio, cioè l'opportunità che offrono è quello di andare a scoprire, magari dopo 20, 30 o 40 anni, i propri compagni di scuola. Si mette quasi un'inserzione, si cercano i compagni di scuola e se questi compagni di scuola frequentano questo Facebook, ecco che si possono far vivi e si possono ricreare un po' delle vecchie comunità. Ci sono anche altre domande, ecco, molte riguardano la privacy. Un ascoltatore ci dice, ma se io mi prendo la foto di Gianfranco Fabi e faccio un mini sito a nome di Gianfranco Fabi, ecco che ho violato la privacy tua, ecco che garanzie dà su questo fronte un sito come Facebook? Luca De Biase. Ma per ora nessuna. Noi abbiamo scoperto l'Alessandro Baricco di Facebook la settimana scorsa. Eravamo appunto con Nova e altre persone a un meeting con Alessandro Baricco, che lamentava il fatto che c'era su Facebook un Alessandro Baricco con tutti i suoi amici, rispondeva come fosse Alessandro Baricco, ma non era Alessandro Baricco, sempre che si sappia che cosa sia Alessandro Baricco. Beh, durante la ricerca, che come sapete abbiamo svolto per fare il libro insieme con gli utenti di Facebook, che hanno mandato un sacco di informazioni e che hanno dato vita a questo libro, è emerso anche il vero falso vero Alessandro Baricco di Facebook, che si chiama Giorgio Cappozzo e che dice, nonostante qualche rischio molto labile, perché insomma è fondamentalmente scherzoso, di essere lui quello che ha fatto Alessandro Baricco su Facebook. Ecco, quindi l'identità in questo caso è affidata alla fiducia. Prima si parlava proprio della fiducia come un elemento di fondo da ricreare, da ricostituire anche attraverso appunto delle relazioni sociali più aperte. Ma in questo senso siamo un po' al confine, il rischio è ancora molto forte che ci siano chi abusa della fiducia. Luca De Biase. Ma il luogo della fiducia per eccellenza nel mondo sono sempre state le banche, e noi sappiamo che ne meritano meno di quella che noi attribuiamo loro, e probabilmente lo stesso, forse di più, per la verità, è di Facebook. L'identità è di chi prende un nome, di chi mette una foto e di chi fa le attività in nome e per conto di quella foto e di quel nome. Ecco, però Enrico Pagliarini, possiamo sperare che siti e social network di questo tipo possano portare a riscoprire poi qual è in fondo la vera chiave della fiducia, che è il guardarsi negli occhi? Cioè possiamo pensare che i siti, uno possa andare a casa, collegarsi a un computer, aprire Facebook per poi riuscire di casa e incontrare degli amici, fare delle comunità, fare della socialità basata appunto non tanto sull'intermediazione di uno schermo quanto sul guardarsi negli occhi? Sì, beh, diciamo che questa potrebbe essere una speranza per il futuro. Quando, per parlare di questo argomento, citerei una parola che è educazione. Io penso che siamo di fronte a fenomeni che stanno letteralmente cambiando il nostro modo di rapportarci con gli altri. Sicuramente nel futuro avremo più di un social network, già oggi ne esistono tantissimi. Cioè Facebook è una cosa che viene utilizzata soprattutto per amicizia, per divertimento. Ci sono social network per il business, dove si trovano anche opportunità di lavoro, soprattutto negli Stati Uniti, meno magari in Europa. Penso che nel futuro sicuramente avremo una serie di relazioni virtuali basate su questi sistemi. Dicevo, la parola che citerei è educazione, perché essendo questi fenomeni nuovi dobbiamo ancora forse noi capire come relazionarci e come trasformare poi queste relazioni non solo in relazioni virtuali ma anche in relazioni fisiche. Grazie. Roberto da Milano, buongiorno. Pronto, buongiorno. Ci dica. Grazie dell'ospitalità. Avevo una curiosità, ho visto recentemente, ho letto, mi pare su Panorama, un decalogo di un giornalista per non iscriversi a Facebook. Tra le cose che mi hanno colpito, ripeto, io non sono un utente di Facebook, citava il fatto della difficoltà di cancellarsi una volta iscritto. Per cui volevo capire se era vera questa storia. Cioè, una volta che uno si iscrive poi ha davvero difficoltà a togliersi da questo social network. Grazie. Luca De Biase, responsabile di Nova 24. Ma non è difficile cancellarsi apparentemente. Cioè c'è un bottone nell'apposita pagina nella quale tu puoi toglierti da Facebook e tutti quelli che più di tanto non ci sanno smanettare non ti ritrovano più. Però i tuoi dati rimangono su server e non si sa per quanto tempo. Quindi c'è un problema anche appunto di privacy sotto questo profilo, perché la legge sulla privacy prescriverebbe che su richiesta uno possa essere cancellato da una lista di distribuzione, da una lista di posta, da qualunque elemento che possa appunto interessarlo. In questo caso quindi c'è ancora qualche dubbio. Ci sono due cose da dire a questo proposito. Primo, quello che si mette su Facebook le persone lo rendono pubblico. Questo è quello che devono sapere. Quindi la loro immagine, le loro informazioni e quello che mettono su Facebook è pubblico, anche se lo fanno vedere solo ai loro amici, devono sapere che di fatto è pubblico. E quindi si sposta il limite della privacy di del luogo nel quale tu vuoi stare per i fatti tuoi, fino al punto che l'utente sceglie. La seconda cosa è che Pizzetti, il garante, è intervenuto anche lui nel libro di Facebook del Sole 24 Ore Nova con un articolo molto preoccupato, non allarmistico, ma molto preoccupato per tutto l'insieme di queste cose che fanno in rete, sostenendo che fondamentalmente le informazioni messe lì sono sostanzialmente fuori controllo. in America, sotto legislazioni diverse, con comportamenti vari. Quindi quello che noi mettiamo online non lo consideriamo più privato, lo dobbiamo considerare pubblico. Siamo in una specie di confusione gestionale che speriamo possa diventare una confusione creativa. Da questa confusione gestionale possono nascere nuove opportunità, nuove possibilità. Enrico Pagliarini, c'è un ascoltatore che ci chiede se comunque questa è una rete mondiale, io posso cercare di recuperare i miei amici d'infanzia se sono in California o in Belgio. Sì, sì, c'è un argentino che si chiama Enrico Pagliarini che mi ha chiesto di diventare suo amico. Io, devo dire, entro in Facebook una volta al mese, quindi passerà ancora un po' di tempo prima che gli dica di sì o di no adesso. Perché poi, ecco, diciamo che non sempre bisogna dire di sì, si possono dire anche molti no, perché molti sono tentati di dire sì a tutte le richieste di amicizia, così si dice in Facebook. Siamo in conclusione, un giudizio veloce su Luca De Biase. L'anno prossimo ne parleremo ancora di Facebook, sarà veramente un fenomeno? Io direi di sì, il problema è sapere fra 5 anni. Ci diamo appuntamento fra 5 anni. Interessante, c'è chi dice che c'è una migrazione della popolazione dei social network. Prima abbiamo parlato un attimo di MySpace. Qualche anno fa si diceva che tutti erano in Friendster, almeno negli Stati Uniti. Vedremo fra qualche anno. Vedremo, vi terremo aggiornati. Io ringrazio Luca De Biase, responsabile di Nova 24. Tra l'altro oggi Nova 24 è allegato solo 24 ore, così come è in allegato, ma con un prezzo di 4,90 euro, questo Istanbul, il fenomeno Facebook. Ringrazio Enrico Pagliarini di Radio 24, ringrazio Filippo Reggi in regia. Quanti ci hanno seguito, l'appuntamento è per domani.